Non mi tocca, vuoi farmi morire? Sapessi ieri com'ero lontano, lontano. Ho bisogno di dormire. Ma che voglia di te, lassù credevo di impazzire. Il cielo fra miliardi di stelle, ero solo da morire. Così ho acceso la radio tra gli auguri, come gli auguri si sentiva cantare. E io lì solo ci pensi da solo a guardare le stelle, a che andassero a cagare. Poco è Natale, e che ero lì come uno scemo, e che dovevo tornare, e che dovevo tornare. Perché spegni la luce, puoi far finta di dormire. Ti piace se ti guardo, se ti parlo magari sorrido, mentre fai finta di dormire. Vabbè, ora ascoltami un po', lo sai che prima di partire mi sono sentito celare le mani andando fuori, non hai l'idea che confusione. A un certo momento le stelle del cielo si sono messe a girare, ho fatto una strada d'argento che i miei occhi non potevano guardare. Sono stati pastori primi a passare, seguiti dai re magi sui loro elefanti, e gli angeli cominciavano a cantare. Ma non è niente una cosa da niente se penso a una casa col sole in cima alla collina, e che tra poco è mattina. Tra un'ora ti svegli, mi guardi e sorridi. Natale, Natale.